casa di pietra bruciata non ha mai visto la neve. Ora sul muro è rimasta soltanto quella tua foto. Stringevi in mano il fucile e una campana in paese racconta una donna che piange di quel tuo fucile che non servì a niente. T'hanno ammazzato quasi per gioco, per dimostrare alla gente che tra quei monti la voce del tempo degli uomini uccisi non deve contare più niente. E la campana un po' triste che a te sembra tanto lontana potrebbe tacere e lasciare il silenzio per te.